Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Quasi 5 milioni di telespettatori su Rai 1 hanno visto ieri sera gli Stati Uniti battere 2-0 la Spagna. Sorpresa clamorosa, basti pensare che chi ha scommesso sulla vittoria degli americani ha incassato 13 volte la posta. Chi poi ha indovinato il 2-0 al 90esimo, la posta l'ha moltiplicata per 45 volte. Sorpresa, dicevo, ma anche dal mio punto di vista una vera bella partita, forse una grande partita, in cui i demeriti della Spagna ci sono stati, ma sempre opinione personale, sono stati inferiori e forse di gran lunga inferiori ai meriti della squadra americana. Mi piacerebbe conoscere l'opinione in proposito di Roberto Beccantini. Buongiorno Roberto. Buon pomeriggio Gigi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Sì, in effetti la partita è piaciuta molto anche a me e devo dire che gli Stati Uniti per 20-30 minuti all'inizio hanno fatto proprio la partita, l'hanno imposta alla Spagna delle 35 partite consecutive, delle 15 vittorie di fila. E quindi è un successo che, come sottolineavi, al di là degli errori di mira della Spagna, è assolutamente meritato. D'altra parte, già in 10 contro 11 avevano rischiato di batterci, non dimentichiamolo. È vero. Era stato quello un campanello d'allarme molto importante da parte degli Stati Uniti. Occupano molto bene il campo, cioè tatticamente sono molto maturi. Poi magari dal punto di vista estetico, i due centrali difensivi sono efficacissimi e un po' meno belli da vedere, però passali comunque se ci riesci. Beh, direi che hanno giocato all'italiana, insomma, come avremmo giocato noi contro la Spagna in condizioni di inferiorità magari fisica, ecco, come in questo momento. A proposito dei centrali difensivi, vedi, siamo sempre lì. Se prendiamo la partita di ieri sera e quella di domenica sera, Cannavaro va rimandato al mittente, Onyewu va subito reclutato al volo. È chiaro che però sai, una partita non fa, può fare Confederation ma non Primavera, quindi è meglio certo. Aspettare, capito? Meglio aspettare. Veramente ho visto ieri sera il centrale di origine nigeriana degli Stati Uniti ai livelli di Cannavaro tedesco del 2006. Sì. Un gigante assoluto, tutti gli altri coagulati bene intorno a lui, però anche della qualità in mezzo al campo, cioè questo Donovan è un signor giocatore. Donovan distribuiva palloni molto interessanti, poi quel Altidore che mi ricorda il fisico John Barnes, bravo. Quello del Liverpool, già si era procurato il rigore contro di noi e ha segnato il primo gol ed è un giocatore insomma che fa reparto. Ecco. Ho letto poi con quale serenità Del Bosque abbia preso la cosa, abbia accettato la sconfitta, erano stati più bravi loro, noi potevamo fare certamente di meglio, ma in fondo non tutto il male viene per nuocere, non ho nulla da rimproverare i miei sul piano dell'impegno, non c'è neanche girata giusta, eccetera. Cioè una serenità complessiva, almeno in questo approccio, insomma, serenità complessiva che è un po' la stessa che la Spagna in campo, cioè è vero che hanno perso, però mi sembra che restino comunque un discreto modello di comportamento, anche perché poi è vero che hanno perso, ma quando perdi così, giocandotela, tenendo la palla bassa, avendo continuamente la voglia e la forza di provarci, alla fine stringi la mano all'altro che è stato più bravo. Assolutamente, poi sai, senza scomodare la legge dei grandi numeri, insomma una sconfitta ci sta, però l'importante è non cadere poi da un eccesso all'altro, dopo aver parlato fino a ieri di modello spagnolo, adesso di riderlo, capito? No, certo, sotto i baffi, certo. Di nascosto, capito? Tossicchiando, eccoli qua gli spagnoli, noi siamo capaci di tutto. Sono oggi come oggi con il Brasile e probabilmente l'Inghilterra di Fabio Capello la squadra più in forma. Oggi se dovessimo fare un fixing di tipo borsistico. Sì. Però al mondiale, l'abbiamo detto in tutte le salse, manca ancora un anno e vedremo, perché proprio il mondiale è il tabù degli spagnoli, mai saliti sul podio. Sì. E vedremo se lo sfateranno il prossimo anno. Roberto Beccantini non è qui oggi con noi solo per questo, è qui anche perché domani saremo insieme ad Alessandria a festeggiare le nozze d'oro di Gianni Rivera con il calcio e mi piaceva farvi partecipi di questa ricorrenza. Domani alle 5 del pomeriggio il vecchio stadio Moccagatta di Alessandria ospiterà una partita di ragazzi che verranno accompagnati in campo proprio da Gianni Rivera, lo stesso campo su cui 50 anni fa, per la precisione il 2 giugno del 59, ma insomma non saranno pochi giorni che cambiano una data, se si parla addirittura di nozze d'oro, debuttava quel giorno in Serie A con la maglia grigia numero 8, attenzione, non con la numero 10, contro l'Inter, e una partita che finì 1-1. Gianni Rivera, intanto vorrei che tu mi aiutassi a tracciare la suggestione di una ricorrenza di questo genere. Io sono molto attratto da chi ha il gusto della memoria, da chi allena i nostri muscoli, visto che siamo tendenzialmente un popolo pigro nel voltarci indietro. Il debutto di Gianni Rivera, mi sono sforzato di cercare di ricordarmi dove fossi il 2 giugno del 59, ma penso che non ce l'ho fatta. L'ho fatto. So solo che la mia Juve perse 1-0 con la Lazio per un autogol di Corradi. Quindi non avevi un a pescare. Magari non avevo la testa al debutto di Gianni Rivera, sì. Come molti immagino, perché molti, anche se avevo un'età veramente 16 anni, avevo un'età veramente incredibile già allora per un debuttante. Poi però insomma il fatto che lo si ricordi è un dato importante, che ti dice che stiamo parlando di un valore assoluto. 15 anni, 9 mesi e 21 giorni, se non ricordo male, insomma qualcosa del genere. In ogni caso non 15 anni e 10 mesi, ancora meno. Roberto, la suggestione di questa tua rievocazione di oggi e poi di domani di Gianni Rivera è anche, e secondo me soprattutto, questa. Rivera fu il primo italiano a vincere il pallone d'oro, se non ricordo male. 40 anni fa. Ecco, 40 anni fa, esattamente nel 69. E tu sei il giurato italiano del pallone d'oro. E allora mi piacerebbe sapere come collochi Rivera in un pantheon, come un pantheon che disegni tu, insomma, no? Solo Italia, cominciamo dall'Italia, direi, sì. Che soprattutto è stato uno dei più grandi giocatori in assoluto di tutti i tempi e probabilmente il più elegante, il più grande del dopoguerra. Non dico più forte, perché sai, più forte, il senso della forza richiama l'invincibilità dello spirito, la potenza del muscolo, oltre sì. Alla classe e al talento. Preferisco stare sul più grande, sì. Che mi dà, perché mi richiama soprattutto il senso estetico, dove Rivera tu potevi essere pro o contro, era inarrivabile. Era insuperabile, sono d'accordo. Perché poi era molto completo, non dimentichiamoci, Abbatino, come lo definì Gianni Brera, lui, apro una parentesi, Rivera ha avuto la fortuna anche di poter contare su una critica talmente autorevole, talmente grande, che persino le critiche, scusami la ripetizione, lo onoravano. Perché un Abbatino detto da Brera vale un po' di più, secondo me, che un Lippi devi cambiare detto da Biscardi. Sì, adesso tu hai fatto dei nomi e effettivamente questo serve a misurare l'abisso, no? Di questi 40, 50, quanti sono anni. È vero che gli anni con Finale 9 hanno rappresentato molto nella sua carriera, perché nel 59 debuttò quel pomeriggio. Tra parentesi, sempre nello stesso 59, questo lo dico a beneficio degli ascoltatori più curiosi di queste storie, nello stesso 59 il Milan, che già l'aveva acquistato dopo un provino a Linate, in cui a promuoverlo e ad arruolarlo al Milan furono due giocatori, Rivera faceva un provino con le riserve, furono due giocatori a giocare titolari, uno si chiamava Schiaffino, l'altro si chiamava Lidl, no? Tanto per dare un'idea, no? Voto di com'era sto ragazzino a quell'età. Il Milan l'aveva già acquistato, ma lo lasciò un anno in prestito all'Alessandria a maturare. La prima partita del campionato successivo, con il Milan campione d'Italia, che aveva appena vinto lo scudetto, finì 3-0 per Alessandria contro il Milan. E fu un Alessandria-Milan che il Milan vinse 3-0 con tre gol di un certo Tacchi, che poi non era tanto un certo perché era una grande ala sinistra argentina, ispirata da quel ragazzino che nel frattempo aveva compiuto 16 anni e che si chiamava e si chiama Gianni Rivera. Dicevo di una collocazione che tu hai già dato, esteticamente inarrivabile, sostanzialmente, così visto che ne stiamo conversando, no, non possiamo non ricordare la grande rivalità con Mazzola e alcuni altri aspetti. Ma è chiaro, per esempio, nasco, se vogliamo, mazzoliano, perché resto folgorato dal gol che Sandro Mazzola realizzò nell'Inter a Budapest col Vajas nell'edizione della Coppa dei Campioni del 66-67, ricorderai Gigi, quello in cui sì, come no. La marca tutta l'Ungheria, scarta tutta l'Ungheria, sì. Capitano soltanto, a ripetizione. Tornando indietro. Prima di tirare organizza un referendum e quindi alla fine sì. Tira, ecco, e facendo gol. Ecco, però non si poteva non essere poi, insomma, a parte questo, Rivera e Rivera. Certo, noi siamo un popolo che soprattutto nel calcio, per tanti motivi, l'invidia, la polemica, il campanile, siamo sempre stati attratti dalla sottrazione. Rivera meno Mazzola, Mazzola meno Rivera. Altri paesi, la Francia per esempio, sono sempre stati attratti dalla posizione Giresse più Platini. Ecco, certo. Ha portato anche però alla famosa celeberrima staffetta messicana, ma anche a, ribadisco, come nel caso dell'autorevolezza della critica di Gianni Brera e dintorni, a cementare anche la leggenda di Rivera, che appunto era una leggenda fondata anche sull'opposizione. Giustissimo, sai che oltre alla questo concetto di sottrazione, tu hai ricordato Platini e Giresse, sai che a me viene spesso in mente quella generazione di talenti degli anni 60, perché a Rivera e Mazzola poi Bulgarelli giocava, ma potremmo aggiungere un certo Mario Corso che era certamente un campione. Mi viene in mente ogni tanto oggi questo concetto di sottrazione che noi allora applicammo, vedendo giocare la Spagna proprio, perché la Spagna li somma questi talenti, perché a Xavi affianca Iniesta, che adesso non c'è per ragioni di infortunio, poi gli affianca Fabregas, poi ne mette degli altri ancora, purché sappia andare tutti dal tuo alla palla. Come faceva Rivera. Certo, nella Spagna Rivera si sarebbe trovato veramente ad occhi chiusi, sarebbe stato il direttore di questa splendida orchestra, e viceversa da noi, proprio per quella che la nostra indole, ha dovuto affrontare questo processo, questa opposizione. Poi è chiaro che un giocatore come Rivera aveva bisogno dei suoi sherpa, perché era un capo cordata, insomma. Vabbè, quello, cioè, quello è tutto. Platini aveva Tiganà, Zidane ha avuto Davids, insomma, quello è logico, hai capito? Però insomma è stato un grandissimo. Certo, un'altra cosa che spesso gli si rimproverava era la continuità, le pause, ma però siamo lì, ripeto, di fronte al valore assoluto tutto diventa relativo. È che di fronte al valore relativo, che purtroppo assoluto, questa suggestione dell'Italia anni 70, che poi per me rimane quella, essendo legata alla giovinezza, quella di maggior io rivedo qualcosa, cioè anche Villa mi ricorda Boninsegna in certe cose, no? Per la sua combattività, per quel suo essere piantato sul terreno, per quel carrello basso, come sì, direbbe. Sì, magari Torres qualche momento, quando va sulle streme, potrebbe ricordarci Gigi Riva. Esatto. Sì, può essere. E Xavi è un desisti più illuminato, insomma, più, no? Mentre, certo, più mobile. Comunque. Giochiamocela così e agli alessandrini, o a chi vive nei dintorni, o magari a chi ha piacere domani di festeggiare queste nozze d'oro del primo pallone d'oro italiano, e cioè di Gianni Rivera con il pallone, l'appuntamento è domani allo stadio Moccagatta di Alessandria intorno alle 17. Grazie a Roberto Beccantini. Grazie a te Gigi, buon pomeriggio a tutti. Chiudiamo questo collegamento con la stampa. Gigi, buongiorno, scrive Anna. Non pensa che Rivera ora non potrebbe stare nemmeno in panchina, vista la velocità e la prestanza fisica dei giocatori? Cara Anna, io penso che Rivera oggi non potrebbe stare in panchina, perché avendo fatto un paio d'anni fa un'operazione all'anca, credo che con un'anca artificiale non sarebbe più granché arruolabile. Per il resto no, non penso assolutamente nulla, penso che ciascuno sia pertinente alla sua epoca, ma penso anche che a seconda di come cambiano, di come sono cambiati e di come cambierebbero, evidentemente per un ripescato, di come cambierebbero i metodi e i sistemi di allenamento, ciascuno insomma riuscirebbe più o meno ad adattarsi a nuovi sistemi di gioco, ma non penso che con quel, cioè escludo che con quel talento non sarebbe anche oggi un grande giocatore e probabilmente un campione. Marco ha chiamato dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno, sono Garantini. Dica Marco. Siamo per l'esito della competizione che ci ha visti partiti, per lo meno. No, volevo solo dire che mi sono rimasto un po' male nel sentire potete queste grandi critiche, per l'amor di Dio ci possono stare, però mai trascendere poi anche nelle offese verso dei giocatori che comunque fino a 3 anni fa ci hanno dato comunque una grande gioia. E gli errori effettivamente se ne sono stati fatti, magari i ragazzi che non hanno giocato come si pensava. Se devo imputare qualcosa lì, cosa che poi non ho sentito dire, mi sembra di aver sentito dire nessuno, ecco, la cosa che riesco a imputargli è il fatto di aver convocato nel privato all'Under 21 un giocatore come Santon per poi tenerlo in panchino e non farlo giocare neanche un secondo. Cioè, voglio dire, mi è sembrata la cosa proprio più l'errore, tra virgolette, si può ma pare che non sia stato un errore, Marco, pare che Santon non stesse bene, anche se poi oggi io credo che la privacy in queste cose sia un po' eccessivamente tutelata, nel senso che se c'è un problema vero di salute, viva la privacy, se parliamo di stiramenti o di contratture o di piccole magagne fisiche, la privacy mi sembra gratuita perché serve soltanto a non fare chiarezza, insomma, e a lasciare di questi equivoci. Santon non stava bene, perché sennò avrebbe giocato. Questa almeno è la spiegazione che è stata data poi. Torniamo tra poco con altri ascoltatori. Oggi non è una giornata di grandi notizie. Io sto provando per lustrare le agenzie, ma sinceramente molto non è accaduto. C'era una riunione in Lega che ormai è iniziata, c'è stata qualche dichiarazione prima dell'ingresso, ma insomma non particolarmente significative. Ce ne sarebbe una molto, molto significativa che è rilasciata da Zamparini. Io oggi proporrò ai presidenti di abbattere gli stipendi del 30%, è la prima cosa che dobbiamo fare, ma insomma, trattandosi di Zamparini, diciamo che l'attendibilità e la credibilità è abbastanza relativa. Poi se lo faranno dopo, se davvero l'avranno fatto, vedremo di tornarci su. Bob ha chiamato da Pistoia. Bob, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Ho provato a chiamare dopo Italia Stati Uniti e anche prima di Spagna Stati Uniti per dire una cosa. Guarda... non è facile prendere la linea, Bob, mi spiace che se ne sia accorto, ma qua i centralini sono sempre un po' intasati. Meno male che c'è riuscito oggi, perché mi pare voglia parlare degli States e della propria partita. Sì, esatto, io sono nato in America, sono in Italia da 20 anni. Bene, dica. Ho visto che la partita Italia-Stati Uniti, che per 60 minuti mi sembra l'America abbia più o meno, non dominato, ma messo 3 volte un giocatore davanti alla porta da soli. Verissimo. E poi gli Stati Uniti, l'Italia ha segnato 2 gol da fuori aria, la prima su un errore di un centrocampista americano che cercava di giocare la palla, la seconda su un tiro che è entrato in porta con non 2 deviazioni, però insomma è entrato in porta, non si sa come. Alla fine di quella partita è stato detto che forse gli Stati Uniti non hanno le qualità per ancora competere con certi squadri, mi sembra. Avevo sentito cose del genere e mi sembra un po' che mi sembra che si guardi troppo il risultato, perché quella partita poteva finire più o meno come è finito ieri sera. Gli Stati Uniti hanno girato in 10 per 60 minuti contro l'Italia per un fallo che c'era e non c'era, e poi se fossi stato espulso un italiano al posto dell'americano non so cosa succedeva. E Bob, infatti diciamo che i più avveduti o quelli che sanno, magari si sforzano di leggere in controluce le partite e i risultati, lo dissero dopo quella dopo quella vittoria contro gli States, che non era poi sto granché, e che era, per carità, attendibilissima, perché 3 gol validi e almeno un paio molto belli anche, però che erano frutto di una superiorità numerica, a parte il fatto che la superiorità numerica era discutibile, perché se ci stava l'espulsione dell'americano ci stava anche quella di Chiellini in occasione del rigore, ma questo è acqua passata, e poi comunque già all'indomani era un discorso che significava poco. Certamente è vero invece era il fatto che l'Italia il sopravvento l'avesse preso soltanto quando gli americani avevano accusato il calo fisico dovuto a questo dispendio di dover correre anche per uno che non c'era, e che tra l'altro era un centrocampista centrale, l'abbiamo rivisto ieri sera, di grande spessore, di grande mobilità. Così è stato, e io trovo che la sua chiave di lettura sia buona, sia ottima anzi. Piero, provincia di Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Io Io volevo dire che se non faceva il primo gol Rossi, che è stato un gran gol, l'ha inventato, era dura veramente, perché erano gli Stati Uniti, giocavano bene. Il discorso è questo, a me pare che però stiano un po' tutti sparando addosso a Lippi, l'aspettavano un po' tutta il varco, perché sì, è vero, Lippi ha avuto tante colpe in questa spedizione, da Immobile, da scelte, tante colpe. Però ora vista anche l'eliminazione della Spagna, non so se lei ora, facendo un parallelo, non forse da riabilitarlo un pochino, evitando di fare catastrofismi, sperando in l'anno prossimo di fare una figura migliore. Sicuramente la faremo, perché nei grandi appuntamenti la nazionale, insomma, bene o male, ha sempre tirato fuori gli attributi. Io non capisco questi discorsi, onestamente. Non è questione di catastrofismi e non è questione di come andrà tra un anno o di come è andata 3 anni fa. Se vogliamo raccontare le cose come stanno, l'Italia ha vinto in maniera certamente non brillante, anzi mediocre, contro gli Stati Uniti. Ha perso non meritatamente dal punto di vista delle occasioni, ma ha perso comunque non giocando bene contro l'Egitto, ed è stata disintegrata dal Brasile in un tempo solo. Dopodiché in un tempo solo, perché poi il Brasile si è fermato. Questo è quello di cui si sta parlando in questo periodo. Poi se invece vogliamo riraccontarci i fasti del 2006, o vogliamo dire che un altro anno l'Italia ridiventerà migliore di adesso, beh, intanto non credo ci siano dubbi, perché peggio di così è dura, primo. Secondo, è arrivata indubbiamente al momento opportuno questa serie di sconfitte, no? E questa ridiscussione proprio di tante scelte, di un'impostazione in generale, perché ti dà un anno di tempo per migliorare, per ristrutturare, per innovare. Io dico che non sarà facile ugualmente, perché siamo già in ritardo, però, e soprattutto siamo in ritardo rispetto ad altre nazionali, però il tempo c'è, e certamente in una competizione come un campionato del mondo, che è un po' diverso come richiamo rispetto a una confederation, l'Italia farà meglio. È quasi sempre andata così, senza dimenticare però che in qualche edizione dei mondiali è andata così, quindi non contiamoci, ma senza poi illuderci al 100%. Da Salerno ha chiamato Bruno, buongiorno. Buongiorno dottor Valentini. Allora, mi rifaccio giusto ad una battuta che lei ha fatto con Beccantini, il parallelo tra l'Italia del 68-70 con la Spagna di adesso. Mi illudo che rifacciano lo stesso percorso, nel senso che praticamente l'Italia vinse gli europei del 68, però nel 70 insomma non ha vinto i mondiali. Beh, voglio dire, li ha persi in finale giocando. Li ha persi in finale, giusto. E quindi? No, niente, nel senso che magari una piccola speranza per noi c'è ancora. L'altra invece, la domanda era questa. Io ho visto che senza dare tutte le colpe alla difesa, insomma, che Cannavaro non è sicuramente quello del 2006, ma mi sembra che anche Chiellini e soprattutto un centrocampo che non faccia filtro, insomma, siano stata la causa della e soprattutto forse anche motivazioni, ma sì, Bruno, so. ma tutta la squadra, ma anche l'attacco che non cava un ragno dal buco. Sì, noi, fermo. Noi abbiamo se vogliamo raccontarcela com'è, cioè noi abbiamo ormai da qualche anno un attacco di nazionale mediocre, ma seriamente mediocre. Cioè questa poi è statistica ed è anche storia. Cioè, nessuna squadra ha mai vinto un campionato del mondo senza attacco, come è successo all'Italia nel 2006. Cioè, nel 2006 segnò due gol Toni credo all'Ucraina, mi sembra di ricordare l'Ucraina, cioè la partita più facile di che ci toccò, e tutti gli altri furono gol singoli. Cioè, io non dico che sempre la nazionale vincente debba avere il capocannoniere, perché non è assolutamente detto, anche se spesso è accaduto in passato, e in genere può succedere, ma un mondiale vinto soltanto con la difesa e con il centrocampo senza l'apporto qualitativo o decisivo degli attaccanti non si era mai visto. E questa E questa penuria continua, tant'è vero che Lippi si è aggrappato ancora adesso a un giocatore come Toni, sperando di recuperarlo e rigenerarlo, ma insomma una battaglia persa in partenza, ma se combatte, se il commissario Tego combatte anche quella battaglia, vuol dire che veramente c'è poco da pescare. Sentiamo ancora Michele dalla provincia di Novara, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Garanzini. Dica. Io voglio essere ottimista, un po' sforzandomi e cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno, anche se secondo me i prossimi mondiali potremmo fare una buona figura, ma non sicuramente giocarcela da protagonisti. Voglio sperare che questa sconfitta abbia segnato un certo crollo di un muro, nel senso, mi sembra che Lippi, Abete e il loro entourage gestiscano un po' l'Italia come se fosse cosa loro. Non so se è un'impressione mia o se magari anche negli ambienti giornalistici è una cosa che può trasparire, però non lo so, mi sembrava, per esempio Donadoni, altra persona, ok, altro carattere, quello che vogliamo, però mi sembrava che le scelte, al di là dei soliti, Cassano, Del Piero, se giocano sì, se giocano no, no, mi sembrava fosse più, come dire, che coinvolgesse un po' di più la nazione nei progetti. Cioè, mi sembra l'arroganza di Lippi sfocia anche in questo, cioè nel chiudere una squadra che non risulta poi alla fine simpatica, e dei tonfi come quello col Brasile, che ci possono anche stare, che secondo me è stato un test per vedere se con i vecchietti, tra virgolette, poteva continuare un certo tipo di discorso, e spero abbia capito a questo punto non può continuare. Ecco, anche queste sconfitte sembrano dei tonfi da cui si può ricavare il petrolio, cioè, e poi ecco, la domanda è questa: secondo lei in un anno, pur tutti gli innesti di cui ha parlato anche ieri signor Bortolotti, si può tentare di costruire qualcosa? Io non credo, perché tentare sì, poi riuscirci bisogna vedere, ma insomma senza dimenticare che non occorre un meccanismo perfetto per vincere un mondiale, lo ha dimostrato l'ultimo mondiale di Germania, perché il meccanismo italiano era incompleto, arrivava fino a tre quarti di campo ed era perfetto, anzi superiore alle attese. Invece poi negli ultimi 30 metri il meccanismo non c'era. Bisogna arrivare a un mondiale, a un europeo, a una grande rassegna, bisogna arrivare nella condizione ideale, in una condizione possibilmente migliore rispetto agli avversari. Questo è il vero segreto, certo, avendo un telaio e un impianto di squadra più credibile di quello che c'è adesso, questo sì. Tra gli appuntamenti del giovedì c'è anche quello con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Guarda, il tempo di avvisare i tecnici di una segnalazione, come sempre accade da parte degli ascoltatori in questi casi, una segnalazione che arriva da San Vincenzo, provincia di Livorno, da cui è sparito da ieri il segnale di Radio 24, e in genere basta dirlo e viene ripristinato quasi per miracolo, e se non istantaneamente, comunque in tempi molto brevi. Marco, ci sono alcuni argomenti, di quelli appunto socio-economico-finanziari, che trattiamo con te, che mi sembrano sul tappeto, ma il principale è questa vicenda Roma, che nemmeno oggi al momento fa registrare sviluppi, ma proprio il fatto che non ci siano sviluppi sta cominciando a diventare inquietante forte, mi pare. Evidentemente così, di solito nel mondo degli affari, quando gli affari appunto vengono chiacchierati molto, finisce sempre che non vengono realizzati. Insomma, chi lavora bene gli affari li fa prima e poi dopo ne parla. E il caso Fioranelli Roma è emblematico di come spesso attorno ai club italiani si creino, diciamo, cordate fantasma e comunque poco attendibili dal punto di vista finanziario. Peccato che in questo caso ci sia di mezzo la Roma, ci sia di mezzo una società quotata in borsa con tanti azionisti che ieri per esempio hanno visto il proprio titolo cedere più del 10%, l'11%. È una vicenda emblematica proprio perché c'è questo agente FIFA, Fioranelli, che si è presentato come titolare di un'offerta importante con soci più o meno noti alle spalle, ma al dunque quando Mediobanca, che è l'advisor di Unicredit, ricordiamo creditore della Roma di oltre 300 milioni, anzi della compagnia Ital Petroli che controlla la Roma, sì, quando gli è stato chiesto appunto di depositare queste garanzie presso l'advisor Mediobanca, in qualche modo è stato reticente, non le ha depositate, tant'è vero che la vicenda sta prendendo le pieghe che tu hai ricordato, insomma, con un inquietante silenzio. Sì, e con addirittura le voci più allarmistiche cominciano a dire che la Roma potrebbe non iscriversi al campionato. Ora, sono cose che si sono spesso dette in passato per squadre che gravitavano intorno a Mediobanca, no? O a emanazioni di Mediobanca, il cui responsabile si chiamava Franco Carraro, se non ricordo male. Però quell'epoca è finita, almeno in teoria, quindi insomma. Sa di fatto che la Roma, la compagnia del petrolio contro la Roma, dobbiamo essere precisi perché altrimenti ci sgridano i tifosi della Roma, ha oltre 360 milioni di debiti, di cui 300 con Unicredit. Unicredit, come tutte le banche mondiali, è stata, diciamo, ha subito i contraccolpi della crisi economica, per cui vuole rientrare da questo credito, visto che le due tranche del debito, quella di dicembre e quella che scade il 30 giugno, non verranno pagate dalla compagnia Italpetroli, per cui Unicredit vuole rientrare. Se l'offerta di Fioranelli, come abbiamo detto, si rivelerà non essere sufficientemente garantita, la cosa più probabile è che si vada all'asta, cioè che la Roma venga messa all'asta, certo, che si presentano acquirenti, e sicuramente questo significherà che i 200 milioni attesi dalla famiglia Sensi sicuramente, diciamo, non verranno incassati. Che poi la Roma possa non essere iscritta al campionato mi sembra un'ipotesi alquanto bizzarra, ma la crisi economica ci ha insegnato che tutto può essere, il calcio come settore economico non è del tutto alieno da possibili sorprese, però per il momento tenderei ad escludere. No, certo, infatti è un'ipotesi estrema che si comincia ad avanzare, ma proprio come ipotesi estrema. La Lega ha iniziato da poco questa sua riunione pomeridiana, non al momento nulla risulta, ma mi pare che l'aspetto più curioso degli ultimi tempi sia stato questo riavvicinamento tra A e B, che poi non aiutaci a capire se quanto è forzato, quanto è forzoso, quanto nasce da uno stato di necessità, quanto Abete è riuscito a fare per accorciare le distanze. Io ho l'impressione che i club di Serie A, in particolare quelli che finora contrattavano individualmente i diritti televisivi, abbiano sempre più reticenze a dividere gli introiti con le altre squadre. Quel principio di solidarietà che dal 2010 dovrebbe ispirare le trattative sui diritti televisivi, garantendo almeno 900 milioni al sistema calcio Italia, mi sembra che siano un bottino troppo ghiotto per quelle società che devono competere con i grandi club europei, e il Real Madrid è solo la punta dell'iceberg di questa, certo, competizione irregolare di cui spesso abbiamo parlato. Real Madrid, ti interrompo un istante, che ha appena annunciato l'acquisto anche di Albiol, centrale difensivo del Valencia, per altri 15 milioni di euro. Oltre al contratto abbastanza ricco per il giocatore. Chiusa il la punto parecchia. è che appunto quella torta di 900 milioni per i club calcistici, che dipendono per oltre due terzi del proprio bilancio da quegli introiti, diventa troppo importante per dividerla con la Serie B. Ora non vorrei ridurre tutta la questione alla torta dei televisivi, ma credo, insomma, che il problema sia fondamentalmente quello. Per cui il riavvicinamento possibile, tentativi di Abete di ricompattare il fronte tra Serie A e Serie B, ho l'impressione che per il momento vadano a vuoto. Senti, e questi erano i due argomenti principali, varie ed eventuali? Ecco, il problema che mi stupisce sempre, che il mondo del calcio italiano, mentre dichiara di voler competere a livello internazionale con i campionati più all'avanguardia, quindi quando si presenta al cospetto di sfide importanti, che sono quelle della privatizzazione degli stadi, della discussione degli introiti e dei diritti televisivi, della governance di quello che è il settore giovanile, quindi con la possibilità di avere o meno più incentivi per il vivaio o invece investire in stranieri e in extracomunitari, tenda sempre a non farsi trovare pronto all'occasione. Mentre ci sono queste sfide immediate, il calcio italiano, abbiamo detto, si divide con la Lega che cerca, con una Superlega di Serie A che vorrebbe affrontare da sola questi temi, una Serie B che viene in qualche modo lasciata al proprio destino, e ci sono queste sfide da affrontare e vengono affrontate in questo momento in maniera inadeguata. Una, per esempio, è la questione degli extracomunitari, che sembrerà secondaria in tutto questo, ma non lo è. La Lega pretende che ci sia un terzo terzo extracomunitario, mentre ora se ne possono tesserare soltanto due, perché gli extracomunitari in generale, gli stranieri, costano meno rispetto ai giocatori del vivaio. Però è chiaro che finché ci saranno giocatori stranieri nelle squadre che non faranno, che occuperanno il posto per i giovani italiani, se ne produrranno sempre meno di campioni. Certo. Santone e Balotelli saranno sempre un'eccezione ed è chiaro che costeranno di più rispetto agli stranieri. In qualche modo è un cane che si morde la coda, è un circolo vizioso, ma sta alla Lega in qualche modo affrontare la questione non con una logica di breve periodo, quindi pensando al risparmio stagione per stagione immediato, certo, ma dovrebbe essere affrontata con una visione strategica, insomma. Speriamo che la nuova gestione della Lega sia in grado di appunto di uno sguardo proiettato nel futuro. Grazie a Marco Bellinazzo. Grazie a voi. Chiudiamo anche questo collegamento con il Sole 24 Ore. Ci sono molti ascoltatori ancora che chiedono di intervenire. Ci sono anche molti messaggi. Non riesco a capire, scrive Michele da Treviso, chi vorreste come coppia titolare nel reparto avanzato? Se ci sono altri attaccanti più forti, leggo ancora, di quelli che ha selezionato Lippi. Ho solo detto che gli attaccanti non si può dire che siano stati gli attaccanti del 2006 a propiziare la vittoria del mondiale, anzi, cioè, quel mondiale fu un mondiale vinto dalla difesa e dalla parte più combattiva del centrocampo, cioè diciamo quella difensiva più Pirlo. Tutto qua. Vittorio, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Ieri mentre l'ascoltavo, alcuni radioascoltatori parlavano dell'utilizzo dei moduli in nazionale già dai tempi di Berzotti indietro. Sì. E io sono un po' uno nostalgico, perché questi moduli non ho mai capito un accidente, cioè il centrale, il trequartista, il 4-4-2, il 4-3-3 e compagnia bella. Io sono rimasto ai tempi di Rocco e di Herrera, quando c'erano i due bei terzini, i due mediani col libero alla Armando Pichi e la linea di attacco con le due ali, le mezzali e un bel centravanti di sfondamento. Sì, poi il calcio è andato avanti, Vittorio. Il calcio si è evoluto, ma è stato, da parte di qualcuno, si è giocato un po' troppo con i numeri. Ed è venuta questa moda, appunto, che ricordava lei, del 3-5-2, del 4-4-2, come se il calcio fosse riconducibile a questi schemi. Io credo che questo sia un linguaggio, il linguaggio numerico, che diceva lei prima, e che non sempre fa 10 in totale, perché ogni tanto si sente anche qualcuno che fa il 4-3-4 o robe del genere. Io credo che queste siano schematizzazioni numeriche che servono ai tecnici stessi, che servono per abbreviare i discorsi, per capirsi tra di loro. Insomma, è un gergo tecnico come c'è in ciascuna materia e in ogni campo, applicato fuori, divulgato e magari rivendicato da gente non del mestiere, spesso e volentieri è sinceramente abbastanza ridicolo. Ho trovato particolarmente divertente, per non dire esilarante, un articolo di stamane sulla Gazzetta dello Sport che racconta dell'amicizia tra Cassano e Balotelli, che tra l'altro si scambiano molti sms. Non ho dubbi che potesse correre un'affinità elettiva tra questi due giocatori, ma quello che non sapevo è che i due, sempre stando a questo articolo della Gazzetta di Luca Taidelli, è che i due si sono conosciuti tramite Materazzi e alla fine mi pare che tutto si tenga come sempre. Il ripasso di storia, Nicola Filippone. Sembra ieri. 25 giugno 1952. Scatta dalla Bretagna la 39esima edizione del Tour de France. La prima tappa, Brest-Rennes di 246 km, se la giudica il belga Rick Van Stembergen, che conserverà la maglia gialla per i primi due giorni. Quindi salirà in cattedra Fausto Coppi, già vincitore del Tour nel 49. Coppi dominerà la corsa, imponendosi in 5 tappe e chiudendo a Parigi con 28 minuti di vantaggio sul secondo classificato, il belga Stan Ockers. Da allora solo altri 3 italiani riusciranno a trionfare nella Grand Boucle: Gastone Nencini nel 1960, Felice Gimondi nel 65 e Marco Pantani nel 98. Beh, non occorre essere dei cultori del reducismo per dire che quelli erano gli anni del Tour, quelli e anche ancora molti altri successivi, ma insomma quelli erano i tempi d'oro del Tour de France, che partirà anche quest'anno regolarmente, mi pare il 4 luglio, e tra l'altro parte da vicino, perché parte da Monaco, da Montecarlo. Ma insomma, quelle edizioni, tipo quella del 52, stravinta da Fausto Coppi, erano quelle in cui sia gli ordini d'arrivo delle tappe che le classifiche finali erano definitive all'istante. Adesso, come sapete, bisogna aspettare gli esami posticipati, anche molto, molto diluiti nel tempo, dell'antidoping. Ha chiamato Giuseppe da Varese, buongiorno. Buongiorno a lei, garantire a tutti gli altri. Dica. Senta, io volevo stemperare gli animi con una battuta. Non so se avete fatto caso che negli ultimi tempi gira una pubblicità di Lippi contro, diciamo, lo scopiazzamento, sì, eccetera eccetera, e lui strutta i nomi dei giocatori e dice: risultato della partita 12-17-0 per gli altri. Voglio dire, lui ce lo sta dicendo da un po' che avrebbe perso, siamo noi che non abbiamo voluto ascoltare, ecco, tutto sì, c'è anche chi sostenga che qualcuno che ha messo in campo in Sudafrica fosse a sua volta taroccato, c'è anche quella, se vogliamo. Se vogliamo, e in effetti qualche sospetto ci potrebbe essere se ricordiamo certe prestazioni di nazionali, soprattutto se rapportate a quelle del 2006. Giuseppe, grazie. Andiamo a Isernia, da dove ha chiamato il signor Mario. Buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Io chiamo per fare questa riflessione, quindi avere un suo parere in merito. Faccio un confronto tra questi due incontri di calcio che sono stati criticati, a mio avviso, in maniera diversa, anche se poi la sostanza sia la stessa. Mi riferisco in particolare a Italia-Spagna degli ultimi europei, in cui l'Italia di Donadoni ha portato la Spagna fino ai rigori ed è stata eliminata ai rigori. Di fatto è stata l'unica squadra che in quell'edizione ha impedito alla Spagna di far gol e di mostrarsi la fantastica Spagna che vinceva con tutti 3-4-0. Quindi volevo confrontare questa partita con il primo Chelsea-Barcellona, quindi quello dell'andata, quello giocato al Camp Nou, in cui il Chelsea, a mio avviso, ha più o meno fatto la stessa tattica, cioè la partita l'ha fatta il Barcellona, il Chelsea si è arroccato in difesa e secondo tutti ha compiuto un capolavoro tattico. Allora io mi domando, perché Hiddink in quell'occasione ha compiuto un capolavoro tattico snaturando il Chelsea e capendo che quello era l'unico modo per fermare il Barcellona, mentre non si è detto lo stesso dell'Italia di Donadoni, che di fatto, ripeto, è stata l'unica squadra a non aver subito gol dalla Spagna e ha rischiato di eliminarla. Ma io non ricordo grandi critiche su quella partita dell'Italia di Donadoni e nemmeno sull'impostazione. Ricordo critiche postume, sì, perché l'Italia era finita fuori e da noi vige solo la filosofia del risultato, come è noto, però non è che possiamo scoprirlo adesso. Non solo il catenaccio di Hiddink in Spagna fu molto più spudorato di quello di Donadoni, invece, che era un modulo assai più elastico. Donadoni pagò due cose nell'occasione in cui meno lo meritava, perché ripeto, quella sera l'Italia contro la Spagna giocava una partita più che decorosa e non dipese certamente da lui se di Natale, non ricordo chi, sbagliarono un rigore. Pagò intanto un girone abbastanza incerto, perché insomma non possiamo dimenticare lo 0-3 con l'Olanda e poi una figura non brillante con la Romania e una qualificazione miracolata, direi, no? Nel senso che miracolosa e fortunata contro la Francia. Ma pagò soprattutto il fatto che nel frattempo era tornato a rendersi disponibile Lippi e per Lippi, avendo per Lippi un debole il presidente federale Abete, che all'epoca di Berlino 2006 era capo delegazione azzurra, poi lì resta da capire se è stato Lippi a farsi vivo o se è stato comunque a ridare la propria disponibilità o è stato Abete a cercarlo. Però questo è stato quello che ha fatto saltare Donadoni alla fine. Più della Spagna. Giuseppe ha chiamato la provincia di Padova, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Due semplici riflessioni dopo la partita divertentissima di ieri sera, mi sono divertito molto. Molto bella, perché di alta qualità. La prima è che gli Stati Uniti hanno giocato come una squadra di football americano, con due linee a quattro ordinatissime e con una pressione sul quarterback avversario ferocissima e un'apertura all'ala sempre comunque efficace. La seconda riflessione... Mi traduce quarterback per cortesia, visto che non pratico. Il portatore di palla, il lanciatore, quello che, diciamo così, ispira il gioco offensivo. Capito. Il gioco offensivo del football americano. Mi compatisca, ma io oltre al calcio sono più per le bocce che per... No, sì, no. Da questo sì, però Sto parallelo mi veniva perché no, certo, certo, adesso ho capito chiaro. Comunque è sport di massa, mentre il calcio è sport elitario. Sì. La seconda riflessione che facevo è che gli Stati Uniti, dopo aver vinto le Olimpiadi con il volley, squadra direi di sconosciuti o di semi sconosciuti, riesce ad imporsi anche in un gioco di squadra come il calcio, che comunque non è un gioco di squadra tra i più in auge negli Stati Uniti. Queste sono le due riflessioni. Grazie all'ascolto. Grazie a lei, Giuseppe. Guardi che gli Stati Uniti nel 50, perché ieri sera ho sentito dire che era la vittoria più prestigiosa degli Stati Uniti di tutti i tempi. Non è vero, non è vero, o meglio, è verissimo, ma forse non la più, perché nei mondiali del 50 gli Stati Uniti giocarono contro l'Inghilterra ed era la partita inaugurale di quel girone. L'Inghilterra si presentava per la prima volta nella sua storia ai mondiali dopo l'isolamento dovuto a superiority complex, nel senso che non si erano mai voluti confrontare, ma per complesso di superiorità, non di inferiorità, contro il resto del mondo. Bene, il debutto a un mondiale degli inglesi, che erano gli inventori, i brevettatori del calcio, ma si consideravano anche i maestri insuperabili, avvenne con una sconfitta. Vinsero gli Stati Uniti 1-0 contro l'Inghilterra. Quindi quella, secondo me, rimane insuperabile. Ma certamente la vittoria di ieri sera contro la Spagna si farà sentire anche sul movimento americano, e in ogni caso è stata strameritata e bellissima. Chissà se, e tra poco lo domanderò a Stefano Piazza, chissà se il Sudafrica si sente in grado stasera di bissare un'impresa di quel genere. Sigla. Confederation Cup a un anno dal mondiale. Stefano Piazza collegato con noi dal Sudafrica, buongiorno. Buongiorno, ciao Gigi, buongiorno a tutti. Allora, dicevo prima che qualcuno si è arricchito. Chi ha puntato ieri sera prima di ieri sera sugli Stati Uniti ha guadagnato 13 volte la posta. Chi addirittura ha indovinato secco il 2-0 ha guadagnato 45 volte quello che aveva puntato. Beato lui. Questa sconfitta della Spagna, come dire, ha galvanizzato ulteriormente i sudafricani oppure sanno che comunque col Brasile rimane dura? Sì, li hanno galvanizzati, nel senso che ovviamente a questo punto loro sperano in una seconda sorpresa, anche perché Luis Fabiano, centravanti che ci ha segnato due gol qualche giorno fa, li ha un po' aiutati dicendo che tutta la pressione sarà sul Brasile, perché tutti si aspettano una vittoria del Brasile e quindi anche i tifosi dei Bafana sono molto tranquilli. Se la Sudafrica dovesse vincere sarebbe un'impresa, se dovesse perdere sarebbe una cosa normale. Quello che ho notato però è che c'è grande entusiasmo, ma non so come dire, discreto, composto. Devi rivolgere domanda specifica al tuo interlocutore perché si lanci in un'entusiasta difesa dei Bafana, altrimenti per la strada si vedono poche manifestazioni. Sì. Legate al tifo e alla Confederations Cup. Meglio così, significa che la febbre da mondiale sarà diversa rispetto a quella attuale da Confederation. E io credo che per ragioni di tempo possiamo salutare e ringraziare Stefano Piazza, ringraziare Pietro Lacorti in regia, Gigi Borghi in redazione, ringraziare tutti voi che siete intervenuti e darvi appuntamento a domani, lasciandovi al giornale radio. Confederation Cup a un anno dal mondiale, in collaborazione con... Nasce nuova Nissan Pixo. Facile da scegliere, facile da avere. Tua da 5.790 euro con rottamazione, senza anticipo, da 95 euro al mese con 5 anni di garanzia. TAEG 10,52% fino al 30 giugno. Scopri Nissan Pixo fino alle 22 da giovedì a sabato dai concessionari Nissan.